Sono le 8 e qui il rock è una cosa seria. Insomma. Pane, burro e rock and roll. Seconda parte, ciao dall'Ariele. La tua colazione. Anche da Spadino e da Fricantoni. E da Trombetta. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock and Roll. Oh, finalmente i miei radioascoltatori preferiti, quelli della seconda ora. Ciao. Siamo reduci da una... da un ripassino di Starway to Heaven col Kazoo che ha dato grosse soddisfazioni. Io ricordo in ogni caso che sia per quanto riguarda gli Zeppelin col Kazoo che per quanto riguarda Zorrock, la nostra radionovela che sta facendo molto parlare di sé, trovate gli interventi sul nostro spazio su internet myspace.com/paneburrofm. Gli interventi, questi qui, restano su almeno una settimana, quindi poi se volete farla sentire anche ai vostri amici, segnalatelo /paneburrofm. E tra l'altro, a proposito di Zorro, che iniziavo la puntata, non l'ho ancora letto questo messaggio, perché sì, c'è questa cosa che sembra che Garavelli non voglia più fare Zorro, giustamente tra l'altro, ma lui mi scrive: se Garavelli non fa più Zorro smetto di ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll. È mica colpa mia se Garavelli non lo vuole fare più, scusa, Allora, mi chiedono via SMS che fine ha fatto il nostro esperto di calabrese, Pane, Anduia, Rock and Roll. Sì, sì, tornerà. Ieri abbiamo fatto il collegamento con la Liguria, quindi dovrebbe essere il prossimo per quanto riguarda le rubriche del dialetto. Ma iniziamo la seconda ora, ovviamente con il brano di Mox. Segnalo, al rientro immediatamente scatta la telefonata. È vero, sì, che abbiamo il contatto per il chinotto e quindi ci lavoreremo su. Avete ragione, però tanto vale andare avanti, no? Abbiamo qualche idea. Oggi mi sa che contattiamo il comune di Milano, Frick? Una bella strada intitolata Fricantoni, secondo me Milano la merita. Iniziamo con il brano di Easy Rider. Italia, 1980. Questi sono i Chaos Rock di Basta Basta. Bella Mox, grazie. Non ce la faccio più, se non arrivi tu mi sento a testa in giù. È questa qui, Basta, basta, non ce la faccio più. Se non arrivi tu mi butto a testa in giù. Oh, basta, basta, non ce la faccio più. Se non arrivi tu mi butto a testa in giù. Oh, yeah. Infoline 0222 del Comune di Milano. Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Bene. Per informazioni su Ecopass, no, selezioni 1. Non ci interessa. Per informazioni sui servizi dedicati agli anziani, agli invalidi civili, alla salute mentale coinè, o per richiedere il cambio targa disabili, selezioni 2. No. Per avere informazioni ed accedere ai servizi del Comune di Milano, selezioni 3. For info line service in English, press 4. Io farei 3. No, for non for, ce ne capiamo più. For. Benvenuti in Infoline 0222. Se desidera parlare con un operatore, selezioni 1. Come di Milano, buongiorno, sono Ezio, come posso aiutarla? Buongiorno, sono Ariel di Radio Rock FM, trasmissione Pane Burro Rock and Roll. Volevamo informazioni per... a noi piacerebbe proporre il nome di una via per Milano. La trasmissione la facciamo con Roberto Fricantoni. Buongiorno. Il mio collega. Buongiorno. Cantante degli Schiantos. E secondo, vorremmo insomma capire l'iter da seguire per appunto proporre a Roberto Fricantoni una via anche qui a Milano. Ecco, vorrei aggiungere che siamo una trasmissione di alto ascolto giovanile. Certo. E quindi ci seguono, vabbè, i ragazzi. Non lo so, la sede è proprio milanese. Gli uffici preposti per quanto riguarda le attività. La toponomastica. Commerciali, pubblicità, economiche, insomma, quel tipo di uffici lì. Ma esiste, al Comune di Milano esiste un ufficio toponomastica? Un ufficio? Toponomastica, per dare il nome alle vie, non lo sa. Penso di sì, credo di sì, non so, guarda. Vabbè, se vuole cerco un attimo un numero utile. Grazie, sarebbe gentilissimo. Molto gentile, grazie. Secondo noi se lo merita, Frick, insomma. Poi la radio gentile, di Milano. Molto gentile. Vediamo chi possiamo rivolgerci. Ufficio toponomastica. Sì, esatto. Forse anche in qualche modo a rock demenziale, insomma. Ah, una via a rock demenziale. Una via a rock demenziale. Una via, beh. Io preferirei Fricantoni. Lo so, però è molto, come dire, personalista. All'inventore del rock demenziale. È un po' mi imbarazza, ma ne sono lusingato, naturalmente. A Bologna c'è già, mi hai detto, no? C'era un'idea per una, sì. Ah, non l'avete ancora fatta? No, era un giardino intitolato agli Schiantos e a Fricantoni. Fantastico. Dopo quello intitolato John Lennon, dedicato a John Lennon. Beh, sembra giusto, insomma. Insomma, ci proviamo, ecco. Ma forse spera è caduta la linea. Forse è caduta la linea. Peccato che sembrava gentile. Credo che abbia rinunciato il nostro giovane e disponibile referente del Comune di Milano. Del Comune di Milano. Facciamo un altro tentativo di informazione, chiamiamo qualche altro ufficio. O forse la Skoda per ottenere una sponsorizzazione. Un'auto per i giovani, la Skoda. No! Che delusione! Sarebbe stato eroico! Maybe. Maestro, io la pregherei gentilmente, se le va, di ripetere il grande poema col quale abbiamo iniziato la trasmissione di stamane, dedicato all'almanacco. Forse lei si riferisce all'ode. Certo, ode, vorrei farla ascoltare anche ai radioascoltatori che magari si sono sintonizzati un po' più tardi. Certo. L'ode al martedì, all'almanacco, esatto, del martedì. Diamo questo vantaggio ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Attenzione, in diretta radiofonica il maestro Fricantoni e la sua ode all'almanacco, prego. Amico o amica che ci ascolti, sì, se ti pare forse un martedì da svacco, ai ai ai, non disperare, no, c'è l'almanacco e puoi passare al contrattacco. E allora, se hai dalla tua l'almanacco. Fantastico, meraviglioso, i compleanni del giorno. Succedeva il 12 febbraio. Nel 1809 mi nasceva Charles Darwin. Sì, naturalista, geologo e agronomo inglese, morirà nel 1882 dopo aver fatto delle scoperte sensazionali, certo, e aver dato vita alla teoria dell'evoluzione, la teoria evoluzionistica. Noi siamo evoluzionisti o creazionisti? O creazionisti, diciamole, posso queste cose sono importanti. Giusto, evoluzionisti. Cioè l'uomo è però in dubbio che ci siano stati degli sviluppi. Che ce frega noi? Sì, 1809, certo, lo stesso giorno. Ah, sì. Sempre il 12 di febbraio, gemelli. Nasceva anche Abraham Lincoln. Ma chissà se avranno saputo di essere nati il medesimo giorno, forse del medesimo, sì, anno. Forse chi lo, sì, sa? Chi lo sa? Ma vedi che nel 1935 la redazione, certo, ci segnala la nascita. Dunque, tanti auguri e buon compleanno al tastierista dei Doors, il celebre Ray Manzarek. Esatto. 1950, Steve Hackett, chitarrista inglese dei famosi, dei cerebellimi Genesis. E potremmo chiudere, secondo lei, senza un'attrice pornografica di riferimento? Colpo, eccolo di scena, qua. Molto bene, questo è il mio territorio. Nasceva nel 1976 e finalmente posso dire, questa la conosco anch'io. Isaac, la conosci anche tu. Silvia Saint, ecco, vedi Isaac con che sguardo annuisce. Anche lei conosce, vedo che, certo, la redazione è in subbuglio. È famosa qui nei nostri studi, l'attrice pornografica cieca, oh, poverina, Silvia Saint. Però. Poverina, però. Perché? Non vedente. No, cieca, cose che è cecoslovacca, Frick. Ah, eh? Chiedo scusa sul momento, sa. Non vuole fare la battuta anche su cecoslovacca? La prego, la faccia. Era un po' cieco. È un po' vacca, perfetto. Grande Silvia, ti ricorderemo sempre. We love you. Just 19. Special Needs, Placebo. Sono le 8 e 19 minuti primi dall'orologio rock di Rock FM, quindi non so quanto possa essere preciso, ma più o meno è quell'ora lì. Ciao dall'Ariele, vado a fare qualche saluto. Vedo che la canzone Basta Basta è piaciuta, Saluto Peo e altri che commentavano addirittura: questo richiede prossimamente, dopo i Chaos Rock, i Wind Open. E qualcun altro via mail addirittura chiedeva le Candegina Gang. Dai, sì, sicuramente approfondiremo quel bel periodo di musica italiana, tra l'altro tanto caro anche al nostro Roberto Fricantoni. Per quanto riguarda i commenti invece della telefonata al Comune di Milano, ringraziamo Manfred da Firenze che ci fa sapere che per avere una strada intitolata bisogna essere morti. L'avevamo immaginato, In realtà stava lì la chiave comica del tutto. E mentre ringrazio Lucio che ci segnala che a Pisa comunque c'è Via Fratelli Antoni, quindi propone di accontentarci di questo. Beh, è già qualcosa, effettivamente è già qualcosa. Saluto anche Ale 353 che propone una rubrica sui rockettari cuori solitari. Ci penseremo. Strombazzata per la sorella in travaglio e nipotino rock in arrivo. Mike, facci sapere, Mi raccomando, crescetemelo a pane, burro e rock and roll. Diana da Milano invece vorrebbe una nostra fotografia con il kazoo. Può essere una buona idea. Saluti anche al tabaccaio Rock Quaracchi Firenze. Suxa. Vale per il reparto medaglia. Ci segnala che una certa Virgin Radio si sovrappone alle nostre frequenze sul segnale di Rock FM. No, dai. Medaglia. Non ci credo, non voglio credere. Saluto Paolo. E anche, vediamo un po', Gianluca da Genova. Abbiamo anche una babysitter rock. Grazia, eccola qui. Fa la babysitter a una bimba di 2 anni e le faccio ascoltare U2, Ram, Depeche Mode e Bruce Springsteen. Sono rock? Beh, decisamente rock, molto rock. Guarda che brano che c'ha pronto Spadino a farmi partire, eh? Brano che ultimamente nei DJ set col collega Max De Rio utilizziamo come chiusura. È molto carina come chiusura perché scatta sempre la coreografia. Quindi per voi che siete pronti a venire a una nostra serata, adesso questo weekend non ne ho, però già il sabato successivo, se non ricordo male, saremo alla Flog di Firenze e si chiuderà così, e vi voglio sentire tutti cantare, si balla, si fa la coreografia che è molto rock. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me, Baba just killed a man, put a gun against his head, pulled photo of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very. Tocca a voi, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. He's sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let it go. Bismillah, we will not let you go. Let it go. Bismillah, we will not let you go. Let it go. Let it go. Let it go. Never let me go. Go, go, go, go, go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Ok, per tutti voi nel traffico scatta Red Banging, via! Vizi le rockstar, e quanti stravizi, e quanti vezi le rockstar, vezi a non finire, come quello del soprannome. Ma che bisogno c'è di un soprannome? Perché non perché chiamarsi Ariel, ecco, per esempio, no? Perché chiamarsi Freak? Non bastava Roberto Antoni, no, non bastava Freak, Daniele Freak. Vaschi, no, Ariel e Freak, per fare così i diversi. Complimenti. All'unisono. Il testo attitudinale di quest'oggi infatti si occupa di soprannomi, ma Isaac Rizzi non ce l'ha un soprannome, no? Lo stagista Staccanovista. È vero, esatto, ce l'hai anche tu, quindi non fare quella faccia anche lì. Anche Spadino, anche Leonora e tutta la redazione al completo. Parliamo di Iggy Pop, anche lui ce l'ha il suo porco soprannome, che è, se lo ricorda, Iggy Pop. No, Iguana. Sta facendo lo stupidino lei, va bene. L'iguana, l'iguana, perché ha questo corpo sinuoso? No, non dica perché, è la domanda. Scusi, ma guardi, scusi. Mi sfascia. No, ma tanto non era vero. Esatto, anche per non è quella. Non è quella giusta. L'ipotesi esatta. Sapreste dirci perché Iggy Pop è soprannominato l'iguana? Forse ipotesi A. Per la sua passione per l'animale, l'iguana. Infatti, attualmente si segnala la presenza di ben 15 iguane nella sua casa di New York. Oppure ipotesi B. Il soprannome iguana fa riferimento alla passione di Iggy Pop per l'esposizione al sole, vera e propria mania dell'artista prendere bagni di sole. Oppure infine ipotesi C. Il soprannome iguana deriva dalla militanza di Iggy nella band degli Iguanas, nel ruolo di batterista dal 1963 al 65. Perché Iggy Pop si fa chiamare l'iguana? La risposta esatta ve la diamo tra poco, e cioè la soluzione perfetta a poco dopo.